Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in America, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti con biglietto rilasciato in Italia da uffici autorizzati. Gli uomini stanno di qua, nel dormitorio maschile. Il momento dell'imbarco è quello più drammatico ed esaltante. Chi parte sa che potrebbe farlo per sempre, il viaggio stesso è un'avventura da far tremare i polsi. Genova è la grande porta d'addio per molti dei 29 milioni di italiani che lasciano il paese tra l'unità d'Italia e la guerra. 3 milioni di loro passeranno ad Ellis Island, isola frontiera, con vista sul sogno americano. Avanti, avanti, non vi fermate. Da oggi e fino alla fine dell'anno, il Museo del Mare di Galata, a Genova, racconta la via dei migranti italiani in una mostra multimediale dal titolo Da Genova ad Ellis Le gamelle e le posate del Vi imbarcate con biglietto e passaporto sul piroscafo Taormina, calandovi nei panni di chi, uomo o donna, questo grande viaggio della povertà l'ha vissuto davvero. Fotografie, documenti, voci, rumori e pianti vi portano ai Cameroni comuni, dove, grazie alla tecnologia, basterà sedersi per incontrare il racconto di un vicino di Branda. Sono Giuseppe Bruna, sono nato a Vignolo, provincia di Cuneo, classe 1898. Nel 1922, in ottobre, sono partito per l'America. Sono partito con 8 del paese, tutti contadini. Pierangelo Campodonico, direttore del Museo del Mare, è curatore della mostra. Vorrei dire che ogni famiglia di italiani ha una storia di questo genere. Allora, nel momento in cui l'emigrazione per noi rappresenta un problema a livello della sicurezza, io credo che la consapevolezza di essere anche noi figli della storia di emigrazione ci aiuta a capire meglio il problema dell'emigrazione e a vederlo come un aspetto più particolare. Passeggeri ed emigranti all'atto dell'imbarco hanno obbligo di consegnare al comandante tutte le armi bianche e da fuoco che avessero con loro.